Sto paraculi. Ciao Eugenio, sei molto molto basso. Ah, stai entrando al porto, ok. Buon lavoro allora Eugenio, dai, buona serata. Forse non è entrato nessuno, non lo so. Natalino, Claudio, non lo so. Ci siete? Tutto deserto. Auli uli. Lamentano che non hanno lavoro, ma se la prendo, perché per loro. Scusa un attimo, io sono a fare. Ok, già, d'accordo. C'è qualcuno qua? Natali, ciao, se sono io e Gianni, che è al telefono. Buonasera, no, ho acceso anche poco fa, ho chiamato e non mi rispondeva nessuno, e allora aspetta, stavo guardando roba al computer, capito? Buonasera a tutti e due comunque. Poco fa qua, perché ce l'ho io, l'ascolto già, ci sarò un'oretta, l'ascolto. Ehi, quando me ne sono alzato, adesso che ora era, non lo so, però non mi ha risposto nessuno. Non mi avevano risposto solo per colpi importanti, ma non lo so. Adesso sento anche i colpi del canale 23 con questo cavolo di apparecchio. E che apparecchio c'hai? Goldatex 4008. Grandissima fregatura. È omologato, ma è una scatola di fiammiste. Non te l'ho mandato su WhatsApp che apparecchio è. Ah no, pensavo che ne avessi un... che ne avessi buscato un altro, tanto con lui stavo pensando. No, no, che cosa ho buscato altro? Ah, te lo fa su Facebook di non aprirti i filmati. Ma hai fatto te la... già. Sì, a volte si sta girando la rotellina 3 ore, allora mi scoccia e non ci... No, non è quello, non li apre proprio. No, quello no. Ci mette 3 ore, capito? Magari quando sono grossi sta la rotellina girando, c'è qualcosa, non può restare. No, no, proprio non li riproduce. Controlla che sia collegato per internet. Dimmi che ti sto mandando un messaggio. Sì. Guarda che ti è arrivato. Natali, te lo mando un messaggio. Natali. Oi. Te lo mando un messaggio. WhatsApp. Ehi, ehi, non c'è problema. Arrivato mi chiede, Natali. Guardalo con gli occhiali, guardalo. Aspetta, ma c'è il mio. Ora ridare. Vabbè, adesso sta fuori. Aspetta, lì, mettiti gli occhiali. Anda vicino al microfono. Che microfono, Carlo? No, ma se ti avvicini già se sente bene. E se parli da lontano e ti arrivi troppo basso. Ma lo devo tenere troppo attaccato per poter uscire. Lo allontano poco poco, già non riceve più, deve essere la capsula che non serve. Ma il microfono normale è così, si dovrebbe mettere 10 cm dalla bocca, non di più, se no non si sente bene. Ehi, se lo metto 10 cm non senti più nulla. Allora mettilo dentro alla bocca, e parla quando ce l'hai in bocca, quando lo stai masticando. Allora ricordo un mosso, gira. Guardate là il dettaglio. Eia, con gli occhiali pure mi lo guarda. Mi la avvicino per vedere meglio. Gianni. Via. Sì, proprio così. Ma a me... una volta mi hanno telefonato. Mi ha detto, famiglia Canavino. Io gli ho detto la stessa cosa. A quella che ha telefonato. Quindi, oh! E te che me l'ha mandato? Davide me l'ha mandato. Ah. E vabbè, più visto lei a Davide. Più visto tutti i giorni. Tutti i giorni, sempre in bottega. Vabbè, come sta il lavoro? Non molto bene. Comunque, già sta tirando avanti. Tutti si lamentano. Casino. Siamo guardato che c'è te sopra... sull'uscio del negozio. C'è un concerto, è una crisi allucinante. Purtroppo così, così è così, c'è da fare. Il mondo del lavoro è ridotto a questi livelli, per cui lo sappiamo benissimo, ormai non c'è più rimedio, perlomeno per il piccolino non c'è più rimedio, sarà sempre peggio. Vuol dire che si è ripresa la crisi, ma non è. Io queste riprese non le vedo. Il turismo turismo, sì, ma io parlo dei negozietti così, tipo quello di Davide, e anche tutti, tutto Sassari, tutto commesso che c'è a Sassari, ormai è in piena crisi, sappiamo, queste grandi multinazionali hanno rovinato tutto, o meglio, non sono loro che hanno rovinato, non sono più gli ha dato la licenza ad aprire certi tipi di negozi, perché quelli abbracciano tutto e vendono di tutto, per cui danneggiano chiunque. Sai cosa c'è, Giulio? Che prima qualche cosa in più si aveva, e quando c'è qualche cosa in più ti prende anche le soddisfazioni, hai degli obblighi, consigli, eccetera, eccetera. Quando poi a fine mese non c'è un'altra nuda, che cosa devi andare a prendere il pesce, a prendere altra roba? Come fai? No, casino, adesso la vita è troppo cara, non c'è niente da fare. Sì, ma è così. Oggi, tu pensa, ieri ho fatto la spesa, ho speso 120 euro, e praticamente quello ho preso tanto per tutta la settimana, e se basta anche, poi se non dovrò comprare ancora, capito? Sì, la stessa cosa, tanto, mi sono dimenticato anche del montarebbe, devo andare a comprare. 110 euro ho speso, un po' di frutta, qualche cosa di carne, cosce di pollo, questa roba qua, e qualche fesseria, non è nemmeno che abbia preso chissà che cosa, no, preso cose al di fuori del normale o cose, niente, no, spendi così adesso, capi i soldi a questa andare, non te la vedi manco un po'. Sì, ma è così, guarda che sono al mercato, ho speso quasi 45 euro per aver comprato polpi e baccalà. Poi sono passato all'altro negozio, alla Lidia Pascoli, e ho comprato lì la carne, già confezionata, tutta quella che vendono nei supermercati, e un po' di verdura, un po' di frutta, di pasta, niente, perché ne abbiamo un cassetto pieno. E poi cosa ho comprato? Del formaggio, pelati, queste cose qua, e ho speso anche 80 euro, per ciò che puoi immaginare. Sì, allora una volta che capi, ti puoi scordare di altri pesci, una volta che capi le 100 euro, quello ti paga, mi manca che ne avevi conto, come le 10 euro ti faccio? Figurati, ma sto già, e siamo appena in tre. Tu immagina se avessi avuto una famiglia numerosissima, come se sarebbe potuto fare, non è possibile. Ma fare molta bene. C'è una famiglia che a parte gli scherzi vogliono fare molta bene. E c'è qualcuno che va anche dentro il cassone della Mondetta a cercare cibo, altro che se l'hanno fatto vedere anche in televisione. Bel governo abbiamo, o meglio, bei governi abbiamo, ci hanno amministrato, per carità. Adesso aspetta, se ne stanno togliendo gli occhi gli uni con gli altri, proprio per la poltrona, per accaparrarsi la poltrona più comoda, a vedere che anche a Sassari si sono picchiati a pugni, si sono picchiati 5 stelle con non so con chi, con un altro, proprio per la poltrona, che puoi immaginare il comune di Sassari, non hai sentito? Sì, l'ho sentito, sì. Ma sa che questi punti si sono meglio di là, chi c'è, chi sa l'altro, poi mangia e basta, poi i poveracci stanno continuando a fare sacrifici, a tirare la cinghia, ma poi alla fine non ce la fanno più, è così, alla fine si stingi, poi alla fine non ce la fai più. Purtroppo così, lo prendo ad esempio col bus. Guarda, 15-20 giorni fa l'hanno condannato, la magistratura l'ha condannato a pagare roba di 240.000 euro che aveva rubato allo Stato italiano, e alla faccia tosta di volersi candidare anche quest'anno per queste elezioni, per le prossime elezioni. L'hanno condannato a lui e al figlio che avevano rubato, che si può immaginare quando era in politica. Adesso si vuole ricandidare questo ladro. E però lui diceva Roma ladrona, e lui era Milano, però allora anche Milano è ladrone. Gioia, oh, già stanno bene, Giulio, sta tanto che si aumentano i stipendi, e noi che siamo male, noi che lavoriamo, ci facciamo il massimo la mattina e la sera, poi c'è un po' di mosso. Purtroppo parte natalina. Nara, Natalino. Sì, Natalino mi sa che mantichette. No, Natalino sta bisticciando con questa rompiballe. Ah, beh. Non fare del mattarello? Picchio forte, si la concede, picchio forte, forte però con mattarello. Arrabbiato lei. Dai, anche in balla. Ah, che malla già. Queste donne sono nate per quello, la carina. Meglio soli che voglio accompagnare. Già si mettono d'accordo, non ti preoccupare. Succede in tutto il mondo. Sì, ma io non avrei voluto vedere il match. Chiedi gioco di fare il filmato, fai il filmato e manda su WhatsApp. Questa concetta. Io se fosse stato che con la sua donna mi avrei messo i guantuni. Il giornale, donna picchiata dal marito con mattarello. E allora, ma lui già fa arti marziali, capito? E lui ha praticato arti marziali, per cui già si difende. Doppiamente si difende, perché ha fatto il giudice e karate. Appunto. Adesso te ne mando un altro messaggio, già, questo è proprio bello curioso, questo è a Porto Torre, se è successo. Ma sarà quello di quello che ci ha fatto il pacco? Sì, quello sì, vabbè, te l'ho già mandato. No, l'ho visto su Facebook, ma mandamelo perché me l'ha chiesto l'amico e non me l'ho potuto mandare perché non l'ho trovato, mandamelo. Sì, te lo mando adesso e intanto nel frattempo mi hanno chiamato per la cena. Però ti mando qualcosa prima, dai, dopo scendo. Adesso te lo mando. Te l'ho mandato, se sta arrivando. Sì, ecco, arrivato. Sì, arrivato. A voi già, dai, io scendo, che mi hanno chiamato per la cena. Ciao, ci sentiamo. Ciao Natalì, vado a cenare, vi lascio, ciao. Ciao Giulia, alle prossime, buon tutto. Ciao Giulio, ciao, ci sentiamo. Che ne so, Natalì? 19:50. Prende, ha fatto un pochettino, poi vado a prendere giù il campo. Ci sentiamo già le prossime, che io sto guardando roba al computer, capito? Ciao Natali, ci sentiamo.